In questa Settimana Santa che si è appena aperta ricordiamo la figura di San Pio X, Giuseppe Sarto, morto 100 anni fa il 20 agosto del 1914, e facciamo cenno oggi al testo dell'inno a San Pio X scritto e musicato da Monsignor Marco Fresina. È la sigla che ci ha preceduto, proprio un breve estratto della sigla di cui sentiamo poche parole. Merita però ripercorrere tutto il testo di questo inno, che poi sarà eseguito anche il prossimo 23 agosto alla presenza del Cardinale Segretario di Stato Monsignor Pietro Parolini per la Santa Messa in occasione del centenario. È un testo che ripercorre idealmente anche l'opera, le opere di San Pio X. Buon pastore del gregge di Cristo, che guidasti con dolce fermezza, proclamando la verità e l'amore, annunciando la salvezza. Nella semplicità del tuo cuore fosti servo fedele della Chiesa, accogliendo i piccoli e i potenti, annunciando il Vangelo. Questa è la prima strofa, poi il ritornello, che abbiamo già sentito nella sigla, dice: Cristo è la salvezza, Cristo è l'amore, in lui il mondo rinasce per la vita eterna. E poi ancora la seconda strofa: difendesti con forza la Chiesa con la luce che nasce dalla fede, custodisti la verità e la pace, dono splendido di grazia. Insegnasti il Vangelo con gioia, annunciando la verità e la fede, innalzasti il vessillo della croce, segno vivo di speranza. E ancora la terza strofa: innalzarsi il tuo inno di lode, liberando il canto di ogni uomo, la pietà, la preghiera della Chiesa, in letizia rinnovasti. Vero servo del corpo di Cristo, che spezzasti con gioia nella Chiesa, annunciando, apostolo di grazia, il mistero dell'amore. Questo è il testo dell'inno ufficiale a San Pio X, scritto per questo anno centenario. Poi il comitato per il centenario ha predisposto anche delle preghiere, una preghiera generale a San Pio X e una specifica per questo anno centenario della morte, approvata proprio pochi giorni fa, alla fine di marzo. Il testo si trova anche nel sito www.centenariopiox.it. Ricordiamo a questo proposito che per tutto quest'anno centenario sarà possibile ricevere il dono dell'indulgenza plenaria alle condizioni consuete, quindi con la confessione, la comunione sacramentale, andando in pellegrinaggio nelle chiese di Riese Pio X, di Tombolo, di Salzano e la cattedrale di Treviso, recitando il credo e innalzando a Dio una preghiera speciale per il Papa. Poi in queste chiese troverete anche i santini, diciamo, dei foglietti che riportano la figura ufficiale dell'anno centenario di Pio X, con il testo della preghiera, ulteriori strumenti utili a punto per vivere quest'anno. La figura di San Pio X è stata al centro, nel corso delle prime quattro domeniche di Quaresima, delle meditazioni tenute da Monsignor Stefano Chioatto proprio nelle quattro chiese che citavo prima, che sono state mete dei pellegrinaggi vicariali. San Pio X, dice Monsignor Chioatto, è un santo della nostra terra, e la sua vita umana è parola che il Signore rivolge a tutto il suo popolo. La sua vicenda è unica nella storia del papato per l'impegno pastorale a tutto campo che l'ha contraddistinta, la dedizione incondizionata e l'attenzione concreta alla vita della Chiesa, visibile nell'opera riformatrice che ha caratterizzato il ministero di Pio X. Un papa semplice, umile, laborioso, fedele alla cura della vita spirituale. Un papa riformatore con un chiaro progetto pastorale, l'aveva messo nel suo motto: instaurare omnia in Cristo, edificare cioè tutte le cose in Cristo. Ha curato la formazione del clero a partire dai seminari, la formazione dei laici con la proposta della catechesi, pensiamo al catechismo che lui stesso aveva scritto, cominciato a scrivere a Salzano da parroco, e poi ha proposto a tutta la Chiesa universale. La vita sacramentale, capace di alimentare la relazione confidenziale con il Signore. Fu lui a volere la prima comunione per i bambini. All'epoca non era usuale farla in età molto giovane. E poi la riforma della musica sacra, Porre al centro Gesù, anche qui lo scopo era lo stesso. La riforma della curia romana mirava a riorganizzare la Chiesa internamente, qui è forse il parallelo più vicino con Papa Francesco. È sotto il suo pontificato che sono iniziati i lavori per redigere il codice di diritto canonico. In generale l'influenza dell'opera di San Pio X si è spinta fino al Concilio Vaticano II. È un papa pastore, un pastore secondo il cuore di Dio. E lui diceva: la via cristiana è per tutti una chiamata alla santità. E quello di Giuseppe Sarto è stato un percorso ordinario che la storia avrebbe ignorato se non fosse divenuto papa. Se fosse rimasto anche patriarca a Venezia, magari sarebbe stato sì, significativo, importante, ma sarebbe rimasto lì e non l'avrebbe conosciuto il mondo intero. Da sacerdote studiò molto, ma non per essere uno specialista, quanto piuttosto per ciò che gli tornasse utile nel suo ministero. E poi la sua semplicità, la capacità immediata di stare in relazione con gli altri, sinonimo di essenzialità, di povertà, di desiderio di compiere la volontà di Dio. E poi pastore come il buon pastore, come Gesù. L'esame di coscienza quotidiano, gli esercizi spirituali, la devozione eucaristica, la devozione mariana. Questo gli diede una grande libertà interiore. Papa Benedetto XVI nell'agosto 2010 scriveva di San Pio X: egli insegna a noi tutti che alla base della nostra azione apostolica nei vari campi in cui operiamo ci deve essere sempre un'intima unione personale con Cristo, da coltivare e accrescere giorno dopo giorno. Questo è il nucleo di tutto il suo insegnamento, di tutto il suo impegno pastorale. Solo se siamo innamorati del Signore saremo capaci di portare gli uomini a Dio e aprirli al suo amore misericordioso, e così aprire il mondo alla misericordia di Dio. Parole del Papa Emerito Benedetto XVI nel ricordare un suo predecessore, appunto San Pio X, e alla schiera dei papi santi tra pochi giorni se ne aggiungeranno altri due, come sapete, Papa Giovanni Paolo II e Papa Roncalli.